Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno cari amici, benvenuti. Noi vi stavamo aspettando, abbiamo pronto per voi il nostro sommario. Andiamo insieme ad ascoltarlo. A proposito di fiducia, di chi ti fidi? Acne non è solo un problema da ragazzi. Il nostro spazio di musicoterapia. Mi fido di te. Forse sono le quattro parole che messe insieme più fanno bene alla nostra vita e a quelle delle persone che ci circondano, che hanno con noi delle relazioni, amore, amicizia, lavoro. Insomma, tutto si gioca sulla capacità di dare e ricevere fiducia e sulla forza e la capacità anche di riconquistarla. Questo penso sia il punto, perché è vero che si può e si deve imparare a fidarsi, ma è ancora più importante imparare nuovamente ad essere persone affidabili. Quindi oggi andremo a cercare quelle che possiamo dire le fondamenta della fiducia, per capire se è iscritta nel nostro DNA o influenzata dall'ambiente che ci circonda, dalle persone con cui abbiamo delle relazioni. Cercheremo di capire che cosa rende una persona affidabile e a che cosa bisogna fare attenzione per riporre la nostra fiducia, come si dice, in buone mani. Comincerei subito con la presentazione dei miei ospiti, dei quali, inutile dirlo, mi fido moltissimo. È tornata a trovarci la dottoressa Gianna Schelotto, psicoterapeuta e scrittrice. Ciao Gianna. Ciao, buongiorno. Io i libri di Gianna Schelotto li abbiamo letti tutti, sono sempre dei grandi successi. Io vi cito l'ultimo, ma forse ne stai scrivendo già uno nuovo, Gianna? Non ancora. Ecco, ma stiamo per Un uomo purché sia, Donne in attesa dell'amore. E qua in studio Alberto Pellai, il nostro medico ricercatore all'Università di Milano, ma tra noi è conosciuto come il papà di Questa casa non è un albergo. Ciao, ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Gianna, bisogna avere fiducia in se stessi per averla negli altri, o questi sono due percorsi differenti? Beh, assolutamente sì, perché se si ha fiducia in se stessi si è anche capaci di individuare nei comportamenti degli altri i segnali affidabili. E in genere chi non ha fiducia di sé proietta la sfiducia sugli altri, la propria sfiducia viene proiettata sugli altri e viene attribuita agli altri, quindi è molto importante il senso di sé. E poi secondo me la fiducia è, come dire, ha due aspetti: uno è quello che riguarda le relazioni e l'altro è quello che riguarda il rapporto con la vita. C'è un bellissimo verso del poeta Tagore che dice: la fiducia è l'uccello che canta quando la notte è ancora buia. Bellissimo. E quindi io lo trovo molto bello, perché dà proprio il senso della fiducia come dire qualcosa che avviene prima che i fatti accadano, e quindi una disponibilità sostanzialmente. Alberto, però c'è un detto che afferma: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Ed effettivamente molti di noi in questo momento stanno coltivando questo modo di essere, di relazionarsi. D'altra parte il contesto in cui viviamo spinge più a chiudersi, a farsi isola, che a gettare ponti. Io credo che sia proprio così, nel senso che una delle cose che è veramente in crisi in questo momento è la relazione tra noi esseri umani, le relazioni interpersonali, per cui la fiducia non la dai mai per scontata, una relazione la guardi sempre prima di tutto per quello che ti può togliere e poi eventualmente per quello che ti può dare. Prova a pensare anche nell'attualità, la fiducia è qualcosa che costantemente deve essere rinnovata anche in politica, quindi bisogna votarla, e di nuovo patto di fiducia tra questo, tra le aziende, eccetera, una parola che nell'economia, nella politica e nella vita di tutti i giorni. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te. Che cosa vi fa dire mi fido di te? Che cosa fate, se lo fate, per sentirvelo dire dagli altri? Proviamo a rispondere a queste domande, direi senza pensarci troppo, come se facessimo una sorta di autotest. Domanda risponde. Poi fidatevi, perché partendo dalle vostre risposte la dottoressa Schelotto e Alberto Pellai ci condurranno in un percorso di orientamento, diciamolo così, per scoprire di quanta fiducia siamo capaci, anche nella fiducia nella vita, come accennava la dottoressa Schelotto, come riconoscere l'affidabilità di chi sta vicino, sia nella vita che nel lavoro, o se preferite l'altro lato della medaglia, come reagire anche alla peggiore delle offese nei confronti della nostra fiducia, il tradimento. Una mela al giorno. E adesso voltiamo decisamente pagina, parliamo di acne. Non colpisce solo i giovani, ne parliamo con il dottor Vincenzo Bettoli, responsabile dell'ambulatorio acne presso la clinica dermatologica dell'Università di Ferrara. Dottore, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Dottore, i brufoli non sono solamente un problema per i ragazzi, per le ragazze in crescita, ma un tipo di acne è presente sin dalla più tenera età, direi proprio dai bambini in fasce. È così? Assolutamente vero. Infatti esistono forme di acne definite acne del neonato, le quali si manifestano già durante i primi giorni di vita, e con le classiche lesioni dell'acne, cioè i comedoni o punti neri e le papule pustole, anche chiamate foruncoli. Ma in genere queste comunque sono forme tranquille, le quali nell'arco di 4 o 6 settimane regrediscono, scompaiono, sono legate agli ormoni che sono ancora in circolo di provenienza della madre, ma in genere insomma più un evento così curioso più che una vera patologia. Ma ha ragione a dire che l'acne non è solamente presente nel territorio dell'adolescenza, perché abbiamo anche dei bambini, non più neonati, ma bambini 3-4 anni che possono avere l'acne, che in questo caso se compare a quell'età lì bisogna prenderla sul serio, perché può essere la spia di qualche disordine ormonale presente ad origine, che può essere di tipo ovarico, testicolare oppure anche surrenalico. Quella è una forma che va presa sul serio. Ma poi la vediamo anche in bimbi più adulti, che è molto più frequente, sì. E però non è preoccupante quando la vediamo per esempio intorno ai 7 anni, 8 anni, 9 anni, ancora prima dell'arrivo del flusso mestruale per le donne e della maturazione sessuale nel maschio, ecco, quelli sono abbastanza frequenti. E anche qui comedoni, punti neri e foruncoli, chiamiamoli così. In questo caso però non c'è da preoccuparsi più di tanto, a meno che non siano presenti, ecco, questo è un punto invece importante, a meno che non siano presenti anche altri aspetti, tipo per esempio una crescita di peso importante, a meno che non ci siano cadute di capelli, sì. Oppure che non ci siano peli superflui, per esempio al mento oppure al torace, in sede assolutamente anomale per quell'età lì, insomma. Invece arriviamo quindi all'età più incriminata, quella dell'adolescenza. I brufoli, insomma, sono un po', no? Segno della gioventù, così venivano. È un'età bella che si scopre dopo, però spesso si deve fare i conti con foruncoli, punti neri, il ragazzino, la ragazzina vive con disagio questa fioritura sulla pelle. Che cosa si può fare? Ci sono delle novità, dottor Bettoli? Sì, intanto vorrei fare un commento che è molto importante, penso, per i giovani, almeno nella mia esperienza personale ricorre molto frequentemente. Per noi l'acne, per il credo comune di solito, è una quasi patologia, sì. Ma in realtà in certi casi non sottovalutiamola, perché ci sono singoli soggetti che invece la vivono assolutamente malissimo, sì. Per cui riuscire, ma questo è compito nostro, magari forse anche compito dei genitori, che così parlando, chiedendo, cercando di capire, si rendono conto del fatto che molte volte questa è segno di un importante disagio profondo che avvertono questi giovani. Quindi questo è un punto che non consideriamola sempre così molto superficialmente, in qualche caso può essere invece un sintomo importante del quale tener conto. Quindi è importante non provare con le cure fai da te, ma è meglio affidarsi subito ad un dermatologo che sa indirizzare quindi la famiglia e il ragazzo a delle cure più specifiche, mirate, per non perdere tempo, dottore. Sì, questo sì, effettivamente, anche perché ci sono molti prodotti da banco, però in realtà se si riesce a centrare subito il prodotto giusto, e magari un consiglio specialistico non sarebbe male, per questo può aiutare molto, si riducono i tempi di trattamento e quindi ovviamente il disagio e anche i costi, perché con un prodotto giusto, che magari non è molto buon mercato, ma comunque nell'insieme permette di evitare l'acquisto e l'utilizzo di altri prodotti che hanno comunque dei costi e che non danno risultati interessanti e in breve tempo. Quindi una consulenza, secondo me, è ragionevole. Dottor Bettoli, le chiedo già subito una consulenza per un'ascoltatrice che ci scrive: mia figlia, 15 anni, è in piena fioritura. Servono le pulizie frequenti della pelle dall'estetista? Punto molto importante, ma dobbiamo distinguere. Se Se per pulizia del viso si intende l'eliminazione dei punti neri, usiamo un termine comune, direi che la risposta sia assolutamente sì, nel senso che quando noi vediamo la comparsa di un foruncolo, usiamo questo termine, noi dobbiamo sapere che alle spalle di questo foruncolo c'è sempre un punto nero oppure una piccola microcisti. Se non l'abbiamo vista noi, non è il tutto legato al fatto che questa non fosse presente, ma è legato al fatto che era molto piccola e sotto il limite di risoluzione del nostro occhio. Sì. Per cui eliminare i punti neri, eliminare le piccole microcisti è terapia, non fa parte così del corredo cosmetologico che accompagna la gestione dell'acne. Quelli vanno eliminati. Ma il distinguo che facevo si riferisce ai foruncoli. Allora, si sa che una delle manovre più divertenti e che portano più soddisfazione soprattutto alle donne è lo schiacciamento dei foruncoli. Però il proprietario dei foruncoli, la proprietaria dei foruncoli deve sapere che quando schiaccia, se c'è una certa parte che esce verso l'esterno, la maggior parte di quel materiale finisce in profondità ed è il punto di partenza di un'ulteriore infiammazione. Insomma, schiacciamento alla lunga porta un peggioramento delle singole lesioni. Quindi bisogna trattenersi dal... Ecco, è chiaro che sempre la proprietaria potrebbe dirmi di sì, d'accordo, non posso fare questa, ma non c'è qualche modo per evitare la presenza di queste lesioni assolutamente sgradevoli dal punto di vista cosmetico? Ovviamente sì, c'è un consiglio che vorrei dare e consiste nel fatto di utilizzare una punta di un ago, di una siringa sterile per sollevare quella pellicina che tutti conoscono bene, la quale trattiene il materiale purulento che sta sotto. Allontanata quella, liberata il materiale purulento, questo può essere eliminato con un cotton fioc. Sì. Quindi non si schiaccia, ma con l'aghetto si apre e si pulisce. Esatto. E col cotton fioc l'aghetto serve solamente per sollevare la pellicola, per liberare il materiale purulento. Dopodiché col cotton fioc si asporta il materiale purulento e a quel punto si possono fare toccature, per esempio sempre con lo stesso cotton fioc, con alcol, il quale provocando una disidratazione, un'evaporazione, provoca il riassorbimento dell'infiammazione. Se questo non è disponibile o comunque si vuole far di meglio, ci sono certi prodotti che i farmacisti potranno consigliare, non voglio far nomi, i quali sono indicati, specificamente proprio studiati per quello. Dottore, prima di chiudere, dedicheremo poi un altro appuntamento per parlare di acne e rughe. No? Il danno alla beffa, quindi dedicheremo poi uno spazio proprio per questo disturbo. Io invece vorrei commentare con lei una buona notizia, cioè ormai gli studi hanno dimostrato che il cibo non ha nessuna colpa e nessuna influenza sullo spuntare dei brufoli e sull'acne, quindi è inutile privarsi di alcuni piaceri e fare una dieta di eliminazione, perché almeno la relazione è provato, non esiste. Dottore, lei me lo conferma? Sì, sostanzialmente è così. L'argomento è molto molto interessante, quindi ci si studia ancora intorno. Devo dire che uno degli studi più interessanti e meglio condotti ultimamente ha dimostrato che ci può anche essere un certo rapporto con certi alimenti, ma in sostanza dopo vari mesi di dieta stretta il risultato maggiore che si è ottenuto è stato di un 10%, quindi risultato che si può ottenere molto facilmente con una delle creme più semplici che si possono utilizzare nel trattamento dell'acne, quindi il gioco non vale la candela, anche perché lei immagina che quanto possa essere difficoltoso per un giovane seguire una dieta stretta. Io troverei solo un'eccezione. Sì. Che consiste nel fatto in cui certi soggetti sono profondamente convinti, soprattutto donne devo dire, sempre noi, sono molto partecipi, certi soggetti sono estremamente convinti che ci sia effettivamente un rapporto con qualche alimento. È chiaro che queste convinzioni secondo me vanno lasciate, ma vorrei però ricordare che l'acne comunque anche spontaneamente ha delle variazioni che possono arrivare anche al 50%, quindi a volte noi tendiamo ad incolpare un alimento, ma magari era una spontanea variazione dell'acne. E da ultimo vorrei ricordare che questo è un aspetto che gli psicologi ci hanno da tempo insegnato, che quando noi osserviamo un evento positivo, cioè che so, cioccolata con pasta di foruncolo, possiamo ricordare quell'evento, ma se noi mangiamo cioccolata e il foruncolo non viene, noi tendiamo a dimenticare quell'evento, per cui la nostra emotività ci può giocare un brutto scherzo nella valutazione dell'effetto. Dottor Bettoli, io la ringrazio per essere stato con noi, appuntamento prestissimo, torneremo ad affrontare questo tema, sono arrivati tantissimi messaggi, grazie dottore, buona grazie giornata e buon lavoro. Pronto soccorso. Allora, avete fatto un atto di fiducia, ci avete scritto già numerosi messaggi, ne leggerò alcuni perché da questi partiremo per esplorare la fiducia a 360 gradi, una capacità, una qualità. Che cos'è, dottoressa, che cos'è Gianna Schelotto? Ti stavo chiamando dottoressa Schelotto, che in realtà è vero, ma insomma Gianna... È un po' esagerato tra noi. Sì, come possiamo definirla? Qualità, dote, capacità? Che cos'è la fiducia? Ma forse più una capacità, nel senso che è proprio un mettere insieme la fiducia di sé, l'autostima, la fiducia negli altri, l'empatia, la capacità di capire l'altro, di cogliere i messaggi che l'altro ci manda, quindi è qualcosa di molto dinamico. Marco ci chiama da Reggio Emilia, vediamo se si fida o non si fida. Marco, buongiorno. Buongiorno a lei, mi sente? Io la sento bene. Ecco. No, un criterio, anche se non si può essere così, diciamo, sistemici, né? Un'opinione che ho rispetto all'affidabilità di una persona è la sofferenza. Ho notato che le persone che hanno sofferto, che hanno passato un percorso psicologico o fisico difficile, generalmente sono più affidabili, si stabilisce un'empatia maggiore. E diffido invece dalle creature cosiddette solari, sì. Perché spesso sono per superficialità o per assenza mancanza di capacità di ascolto, ecco. Quindi sono meno affidabili. Alberto, tu cosa ne pensi? Marco si fida delle persone che hanno sofferto, mentre di quelle un po' solari, ma tra le righe si leggeva un po' farfalline. Allora, direi che la sofferenza è sempre formativa, però bisogna anche averla in qualche modo saputa riconoscere, elaborare e gestire, perché se rimane irrisolta e con essa quindi rimangono irrisolte le emozioni che alla sofferenza sono associate, le persone possono essere invece non così dirette e non così lineari o così capaci di vedere nell'altro. Gianna, abbiamo iniziato con quella bella immagine, quella bella frase che tu ci hai regalato, e in fondo quello che abbiamo bisogno soprattutto nei momenti bui è di quel canto, di quella luce e di quella fiducia nella vita. Sì, e soprattutto di sapere che il buio non può durare per sempre, voglio dire, dopo il buio viene comunque la luce, come diceva giustamente Edoardo De Filippo, ad da passare nottata, cioè la notte passa, e l'importante è durante la notte di non sentirsi né sconfitti né arresi, di essere combattenti nella notte, cioè di adoperarsi perché il giorno ci trovi pronti. Andiamo a Milano, anzi restiamo a Milano perché c'è Fabrizio. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Buongiorno a lei. È un piacere essere in trasmissione. In questo momento però mi trovo più verso Modena per motivi di lavoro, però sono di Milano. Va bene. Allora, io volevo dire una cosa, che la prima persona cui veramente nutro una fiducia immisurabile sono io, nel senso che mi fido completamente di tutte le mie reazioni e di tutto quello che faccio. Questa è una cosa importante che io non vedo nelle altre persone. E che molto spesso proprio non nutrono fiducia nei propri confronti e quindi non riescono ad avere fiducia anche certo verso terzi. E l'altra cosa è che ho 37 anni, in tutti questi anni ho, diciamo, sviluppato una capacità per cui ho creato due mondi paralleli, uno di persone e istituzioni di cui proprio non mi fido e uno invece nella quale rientrano proprio i miei amici fidati. Come li sceglie, scusi Fabrizio, così prendiamo appunti? È un rapporto... A naso oppure... Ma sicuramente io ho un principio, che sono sempre la persona che fa il primo passo, quindi do la possibilità agli altri di dimostrare qualcosa partendo io dimostrando loro qualcosa. E poi è un rapporto che si costruisce nel tempo, quindi è fatto di confidenze, di affetti, di dimostrazioni molto pratiche. Io per esempio esprimo sempre i miei sentimenti anche verso gli amici, che molto spesso, le dico, rimangono anche un po' basiti, visto l'ambiguità che va di moda in questo periodo. Certo. Fabrizio, mai deluso da un amico a cui aveva dato fiducia? Sì, Purtroppo sì, è capitato e devo dire che le emozioni che ho provato sono state quelle che si provano solitamente quando si viene piantati da una ragazza, da una fidanzata, proprio perché si crea un rapporto molto stretto. Certo. Grazie Fabrizio. Quando non ti senti vivo e non pensi positivo, quando guardi la tua moto e c'hai un senso di vuoto e vorresti dar le botte alla gente della notte, quando un raggio di sole fa crescere l'ortica, quando hai perso le parole e ogni gesto è una fatica, basta un po' di fiducia nel prossimo, perché se c'è la fiducia nel prossimo si aggiunge altra fiducia nel prossimo e ti si aprirà una finestra sul giardino. Riprendiamo con un sorriso a parlare di un tema che a volte ci mette in difficoltà e non ci fa per nulla ridere. Pensiamo a quando diamo fiducia e siamo traditi. Non penso solo alle storie d'amore, ma a tutte le situazioni in cui ci siamo esposti, affidati e tutto improvvisamente, perché devo dire che quando la fiducia è cieca non si accorge di nulla, non sente nulla e poi scopriamo che tutto era diverso da come pensavamo. Dottoressa Schelotto, la fiducia può diventare a volte anche una trappola, un alibi? Eh sì, perché appunto perché la fiducia, per essere una vera fiducia, non deve essere cieca. Nel senso che io devo riconoscere all'altro la possibilità di sbagliare, di trovarsi in tentazione, di scegliere. Se io ho una fiducia cieca, spesso le donne tradite mi dicono avevo una fiducia cieca in lui, ma non può essere cieca perché non si riconosce all'altro una vita, una capacità di rapportarsi con le situazioni del quotidiano. Allora, come dire, l'altro viene cristallizzato in un ruolo per cui deve essere sempre uguale a se stesso, sempre così come lo vediamo noi, non deve vivere, non deve agire. La vera fiducia è quella che si misura con le possibilità che l'altro possa incontrare, come dire, dei rischi, dei pericoli, degli errori, e lì nasce la fiducia. So che puoi sbagliare, so che sei in una condizione di sbagliare, ma insieme costruiamo un rapporto in cui ci sia spazio per la fiducia di entrambi. Andiamo a sentire che cosa ci racconta Barbara, che ci chiama da Alessandria. Barbara, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccomi. Ecco noi a lei. Che ci racconta? Dicevo prima che la fiducia è una questione di pelle, nel senso che parte da me e o mi fido immediatamente di una persona, nel senso che proprio ritengo di poter instaurare, di cominciare a instaurare un rapporto, oppure no. Quindi lo capisco subito se vale la pena tentare. E le volte in cui ho tentato, nonostante la prima impressione fosse stata negativa, poi è andata male e quindi posso dire mea culpa. Quindi lei si fida molto anche dell'aspetto, di una faccia che ispira fiducia, si dice tante volte, no? Sì. E non ha mai sbagliato, Barbara? Veramente, devo essere sincera, no, nel senso che quando sono andata contro questo mio primo istinto primordiale, poi si è rivelato invece vero e quindi mi fido molto molto molto molto di me stessa, inizio il rapporto. Poi, come ho sentito prima dire dalla dottoressa Schelotto, è vero che nel tempo poi sia io che l'altra persona possiamo ovviamente sbagliare, però questo non è proprio una specie di fiducia, questo è... La fiducia è il preliminare, non so se mi sono spiegata. No, ho capito Alberto. Quindi noi abbiamo Barbara che ci dice, insomma, ha una sorta di sesto senso che le fa scegliere le persone di cui fidarsi. La dottoressa Schelotto diceva che sottolineava un aspetto importante, la fiducia non deve essere cieca, bisogna mettersi il tuo famoso paio d'occhiali che tu ci fai indossare spesso, questa casa non è un albergo. Come si coltiva allora una fiducia con gli occhiali? Ma io direi che intanto Barbara dà proprio proprio una base anche neurobiologica la fiducia, cioè ci sono proprio delle persone che hanno una sorta di paio di antenne per cui riescono veramente a vedere un po' nella mente degli altri, mm-hmm. e questa è quella che gli psicologi chiamano saper cogliere la teoria della mente dell'altro, che significa riesco a sentire quello che tu senti, riesco a trovarmi proprio in sintonia con il tuo pensare, con il tuo sentire. Tu ce l'hai o no questa mente? Ma credo che un po' per chi fa il mio mestiere sia una parte necessaria, ed è interessante vedere come questo si costruisce spesso anche molto precocemente nella vita. Una mamma che sa, tu c'è un momento in cui tu sei totalmente affidato nella relazione a qualcun altro, ed è quando sei bambino, quando sei nato da poco e non noi puoi non lo sappiamo, per non, fortuna non puoi non fidarti della persona che ti fa da genitore, ed effettivamente se quella relazione mamma-bambino e genitori-bambini funziona bene, quello è un momento in cui tu costruisci un patrimonio di fiducia e costruisci anche quel paio di antenne che ti fa fare l'operazione che ci ha appena raccontato Barbara. E che colore hanno queste antennine? Perché così le immaginiamo. Io verdi. Paolo, buongiorno, ci chiama dalla provincia di Lucca. Lei ce le ha le antenne? Buongiorno Nicoletta. Beh, io diciamo più che antenne ho 56 anni, quindi ho avuto tantissime delusioni, amarezze, anche gravi, fino anche ad avere diciamo dei problemi di salute, no? Sì. In passato. E quindi ecco, attraverso un percorso di consapevolezza, naturalmente fatto, seguito da persone esperte, beh niente, ho come dire, avuto una trasformazione che mi permette di avere amore incondizionato, ecco, ma senza aspettarmi niente dall'altro, no? Perché tutti siamo oggetti e soggetti, dobbiamo sbagliare in fondo e fondo. E quindi ecco, in questa consapevolezza in pratica non permetti mai agli altri di entrare oltre i tuoi confini, e rimane questo distacco rispettoso, ecco, ed eventualmente, non so, anche in un rapporto affettivo, il lasciarsi poi non diventa così traumatico. Quindi Paolo, lei si è messo un po' una corazzina, una corazza? No, perché mettersi una corazza significa già porre diciamo qualcosa che non è nostro, è una consapevolezza, perché sì. non crea sforzo, quindi l'importante è che la cosa sia naturale, perché se diventa forzosa allora già essa stessa diventa un problema, un sacrificio, no? Insomma, dottoressa Schelotto, quando la vita insegna, questo ci insegna l'esperienza di Paolo? Sì, il punto è questo, che la mia idea è della fiducia è naturalmente, ho una fiducia illimitata negli altri, sono portata ad avere fiducia negli altri, e però proprio di fronte, cioè, se qualcuno mi tradisce, se qualcuno mi fa cambiare idea su di sé, io mi interrogo sempre e mi chiedo fino a che punto mi ha tradito lui e fino a che punto io ho tradito me stessa dandogli una fiducia illimitata. Ho capito. E questo è il punto. Quando parlavo della fiducia come alibi, parlavo di questo. In fondo anche nella politica noi diamo il voto a chi ci dice la verità, a chi è sincero fino in fondo, o a chi ci convince, o a chi in quel momento ci fa sorridere, ci fa la battuta, ci dice delle cose che ci sembrano belle e importanti e non abbiamo nemmeno bisogno di approfondire certe cose, salvo poi dopo lamentarci, arrabbiarci, perché quella persona che sembrava così eloquente, così convincente, in realtà non ha fatto le cose che mi aveva promesso di fare. C'è sempre una partecipazione nel dare la fiducia e nel ricevere un tradimento. E invece noi siamo portati a dire è colpa dell'altro. Massimo, buongiorno a lei. Senta, complimenti per la trasmissione, la ringrazio di avermi richiamato. Vi ascolto sempre tutti i giorni. Bravo. Diciamo, io più che altro volevo proprio fare dire, insomma, ecco, la mia esperienza. Quando mi sento su tutti i giorni, vi stavo dicendo prima, quando sentivo proprio il tema, mi sono fermato, io devo proprio intervenire. E niente, una cosa che volevo dire è che sono una persona molto molto aperta, ho sempre dato molta fiducia alle persone, anche insomma, se da tanti anni sto in commercio, perciò uno deve sempre col giusto peso. Diciamo che adesso ho 50 anni e in questi anni ho avuto, cioè la famiglia tutto bene, sono stato dai 28 anni, figlia, diciamo, una famiglia un po' all'antica, nei valori. E ho ricevuto due o tre bordate molto, molto, molto pesanti, Mm. Cui, diciamo, una addirittura da una persona molto, molto vicina, e niente, e ha creato proprio una frattura di cui non riesce ancora a superarla. Dottoressa Schelotto, Massimo è ancora molto coinvolto. Lei prima ci ha detto praticamente che non è solamente gli altri a tradire la nostra fiducia, forse abbiamo fatto anche noi, no, un tradimento nei confronti di noi stessi, non abbiamo visto delle cose. Ma quando la ferita scotta così tanto come succede a Massimo, interrogarsi sì, può servire, ma Gianna. Sì, è certo che quando la ferita è così recente. Possiamo fare un pronto soccorso? È importante ritirare, come dire, tutte le energie che erano state messe all'esterno, ritirarle su se stesse proprio per sanare quella frattura di cui parlava l'ascoltatore. Cioè c'è il dolore, il distacco, la perdita, che creano davvero dei vortici dentro di sé, e allora a quel punto tutte le energie vanno ritirate, la fiducia verso gli altri non ha più molto senso, è importante ricostruire proprio filo dopo filo l'immagine di sé. Quindi bisogna riprendersi un po' in mano, Alberto. Sì, credo che va anche proprio detto in tutta onestà che nessuna relazione nasce perfetta e rimane perfetta per sempre. In realtà la qualità delle relazioni è proprio fatta dalla loro capacità di rompersi e poi di sapersi rigenerare, cioè di sopravvivere al trauma della loro frattura laddove possibile e sapersi ricostruire in una forma nuova. Per cui forse l'altra valutazione importante che il nostro ascoltatore può fare è qual è la capacità in comune che abbiamo dentro a questo tradimento così forte della reciproca fiducia di ricostruire, di mettere, generare insieme una riparazione. Se intuisco che quella è una potenzialità su cui provare a lavorare, quella potrebbe essere una direzione che ricostruisce la possibilità di vedere il sole. Alberto, io cercherei di rispondere anche sinteticamente agli ascoltatori che ci chiedono, in un mondo così cattivo, come insegnare ai bambini ad avere fiducia? E quindi questo è un campo che spetta a te, ti passo la palla, perché sono tanti gli sms che arrivano su questo tema. I bambini e la fiducia, i bambini si fidano e si affidano, e è difficile dire a loro no, non ti fidare, non, attenzione, perché si teme in qualche modo di precludergli delle relazioni anche dirette, sane, fresche. Sì, direi che uno degli errori che facciamo molto spesso è insegnare ai nostri figli ad avere paura di questo o di quello, cioè additare proprio qualcosa che sta fuori di noi e dire di lui o di lei devi avere un sacro terrore. Questo non serve a niente. La cosa principale invece è aiutare proprio i bambini a sviluppare quel paio di antenne di cui parlavamo prima, cioè imparare a riconoscere come nelle relazioni con gli altri noi sentiamo fortissime emozioni che si accendono dentro di noi e che spesso sono una bussola per aiutarci a capire chi abbiamo davanti, quali potrebbero essere le sue intenzioni. Quindi molto più seguire una bussola interna che una bussola che sta fuori di noi. Posso dare anche un messaggio di speranza? Quando la vostra fiducia è stata tradita, non dimenticate la storia di quei bambini, lo sanno moltissimo, molto bene i genitori adottivi. A volte i bambini che vengono adottati, che hanno storie di abbandoni plurimi, entrano in una famiglia adottiva e vogliono mettere alla prova la fiducia di chi li ha presi con loro, e quindi fanno proprio un periodo che molti psicologi raccontano come un periodo di guerra terribile, ne combinano di ogni colore, ma arriva un giorno in cui improvvisamente tutto cambia, hanno imparato a fidarsi, sentono proprio che ce l'hanno fatta quei genitori a meritarsi il loro amore, e da quel giorno è una sorta di luna di miele ed è credo un'esperienza bellissima che ci dice che a volte la fiducia viene messa alla prova, ma quando dall'altra parte trova chi la sa conquistare, la sa meritare, poi diventa un connubio che rende meravigliosa la vita di tutti. Ed eccoci qui, ultima parte di Essere Benessere e ultimo appuntamento con il nostro spazio di musicoterapia. Abbiamo imparato tante cose, abbiamo lavorato sulle emozioni, abbiamo imparato a commuoverci, abbiamo parlato della forza dell'acqua e anche della forza del fuoco, ci siamo anche un po' carbonizzati. In linea con noi il dottor Francesco Aquilar. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo pronti per essere guidati in nuove emozioni. Il dottor Aquilar è psicologo, psicoterapeuta cognitivista e presidente di AIPCOS, ma qui in studio con me il maestro Roberto Cacciapaglia, ormai carbonizzato pure lui. Assolutamente, da te Nicoletta, e comunque un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, io oggi ho scelto una parola che a me fa sta subito bene, perché mi rimanda ad un'immagine che per me è vita, e abbiamo scelto la parola luce. Dottor Aquilar, la luce incide profondamente sul nostro umore, tanto che, se non sbaglio, nei paesi del nordici i disturbi legati al tono dell'umore hanno un tasso molto più alto rispetto, certo, a quelli dei paesi mediterranei, dove c'è la passione, il sole, eh? Certo. Evviva, certo, la luce! La luce è la cosa più importante, la luce è vita e la luce è saggezza, no? La tradizione cristiana di luce e tenebre è una tradizione ben più antica del messaggio cristiano storico, e quindi luce è un tema sul quale tutti ci accendiamo, perché tutti vorremmo più luce sull'esperienza, più luce sulle relazioni, più luce su qual è il nostro modo di sviluppare la vita e quale potrebbe essere un modo più luminoso di svilupparla e di godercela e di farla godere alle persone care, quindi è un tema assolutamente coinvolgente. Luce inteso anche come guida, come persone di riferimento, come maestri, come esperienze positive. Roberto, sicuramente tu hai avuto le tue guide, i tuoi maestri, le tue luci. Assolutamente sì, poi per me la musica, sai, è stata sempre collegata a una ricerca mia individuale, quindi Ma quando hai deciso? Quando ti è venuta, a proposito di luce, l'illuminazione? Hai detto, ma quella la sto ancora aspettando, la stiamo da grande lavorando per quello. Da grande sarà la musica la mia vita. Ho incominciato a studiare grazie a mia madre, a 4 anni io ho incominciato a studiare pianoforte, per cui poi da lì conservatorio e ho fatto direzione d'orchestra, musica elettronica, poi al CNR che citavi tu, computer music, eccetera, e composizione, per cui, ma ho fatto pittura, ho studiato anche al liceo artistico, per cui per un certo periodo, così molto verso i 12-13 anni, ero indeciso, poi ho scelto la musica. Dottor Aquilar, lavoriamo sulla parola di oggi, luce. L'abbiamo già in parte così dato delle indicazioni, sia Roberto Cacciapaglia che il dottor Aquilar ci hanno dato delle indicazioni, ma io vorrei far muovere le emozioni proprio sentendo il brano Luminous Night di Roberto Cacciapaglia. Dottor Aquilar, che luce è? È una luce forte? È una luce ricorsiva, è una luce come quella del giorno e della notte che ritorna e che poi ha un buio dal quale ritorna poi dopo vivificata. Mi ricordava molto la ricorsività dei processi di pensiero. Il titolo del brano è Notte Luminosa, sostanzialmente. Sì. È come se una notte luminosa consentisse alla persona di riflettere anche forse un po' troppo, anche forse consentendosi il lusso di poter rimugitare un poco, certo che poi alla fine ne viene fuori con una comprensione più ampia di quello che è successo. E c'è anche il solito contrasto che rappresenta la ricchezza: la notte dovrebbe essere una notte buia, questa è una notte luminosa, nel senso che se c'è attenzione, se c'è consapevolezza, anche quello che è tenebra diventa luce e lo posso riutilizzare in un percorso significativo. Mi sembrerebbe questo uno dei sensi da poter attribuire alla sequenza. Roberto, Sì, assolutamente, la ringrazio dottore. Io questo pezzo tra l'altro l'ho composto proprio in una notte in cui c'era un cielo stellato che sembrava di essere di giorno, no? Pensando anche a quello che mia madre mi aveva detto, che era siciliana, che ci sono dei momenti nella giornata, due esattamente, uno prima dell'aurora e uno prima del tramonto, dove il pianeta si ferma, no? Tutto sembra proprio fermarsi, uccelli, alberi, l'aria, no? E dura circa 40 minuti. No? E questo momento incomincia proprio con una lunga espirazione del pianeta che dall'alba arriva al tramonto, e poi del tramonto la notte espira. E se ci fate caso è un po' come la nostra ispirazione e ispirazione, cioè non sono attaccate, no? C'è sempre un attimo di pausa, no? Quindi questo respiro del mondo. Sulla luce, quello che mi interessava dire è che la luce contiene tutti gli elementi, cioè i colori e gli elementi sono contenuti nella luce, no? Quindi è proprio, è per questo che è sinonimo anche di trascendenza, no? Ma Roberto, ci sono degli strumenti che sono più luminosi di altri come suoni? Sicuramente le frequenze acute. Io quello che posso dirti è che il pianoforte nella nostra cultura occidentale contiene tutte le frequenze, un po' come il leone, diciamo, degli strumenti. Poi è ci un sono po', e quindi è la luce il pianoforte. È secondo me quello che ha più possibilità di autonomamente di creare musica, di creare mondi, no? Che poi è quello che la musica fa, no? Di creare, no? Di creare mondi. Cioè, gli strumenti ad arco sono bellissimi, però insomma c'è molto. Il piano penso che contenga un po' tutto, è un po' come la luce, che contiene tutti gli elementi. Dottor Aquilar, tutti noi siamo un po' dei pianoforti, no? Tutti noi siamo un po' dei pianoforti e come con il pianoforte strumento, e sono d'accordo col maestro Cacciapaglia che contiene tutte le altre sonorità e può accendersi in forme diverse e può condursi su tutte le emozioni, dall'ironia alla malinconia, il nostro pianoforte dobbiamo imparare a saperlo suonare e dobbiamo riuscire a saper suonare abbastanza bene anche il pianoforte delle persone che sono importanti per noi. Quindi in qualche modo si fanno dei concerti a quattro mani a due pianoforti. Sono i più difficili. Ci vuole molto... Roberto dice che ci vuole molto allenamento, sono i più difficili. Sono sicuramente molto difficili, ma in termini di improvvisazione potrebbero essere anche i più creativi. Sicuramente, sono d'accordo. Però bisogna essere tutte e due in gambe, quindi bisogna deve essere quasi alla stessa preparazione. Prima bisogna prepararsi individualmente e poi si incontra l'altro. No? E questo è un altro segreto di oggi, prepararsi individualmente, dottor Aquilar, per poi suonare in due, no? Certo. Questo succede anche nella vita. E certo, ma soprattutto cominciamo per prepararsi individualmente a saper suonare bene il nostro pianoforte, il pianoforte che siamo noi stessi. È lì utilizzando che... Come si fa? I semitoni, utilizzando anche gli accordi, utilizzandolo per poter gridare e per poter sussurrare. Quindi in qualche modo utilizzando tutte le 10 direzioni da cui eravamo partiti, non soltanto per muoverci fuori di noi, ma per muoverci anche dentro di noi e in relazione con le persone che di volta in volta sono più significative. Probabilmente è vero che è difficile entrare in relazione, ma serve solo di essere tolleranti per poterlo fare e di essere umili contemporaneamente. Se si fa un lavoro verso questa direzione, l'effetto creativo è molto divertente e poi le anime, tra virgolette, si sintonizzano in automatico. È solo difficile all'inizio. Dottor Aquila, lei è rassicurata, lei ci fa fare veramente delle cose difficili, perché ci fa buttare e allo stesso tempo ci rassicura, e questo è un po' il suo segreto e forse anche il segreto della musica di Roberto Cacciapaglia, che ci fa avere delle emozioni forti ma sostenute allo stesso tempo. È come se avessimo una rete sotto, la rete è il nostro dottor Aquila, la rete è la tua musica. Sì, è disancorata dal bisogno, questa è la base di tutto. Il rapporto non può essere un rapporto di bisogno. Allora uno, perché individualmente imparare a suonare bene, mi sembra che analogia vuol dire che tu stai bene da solo col tuo strumento e non hai una relazione per bisogno, perché sennò poi tutto cade, ha meno valore. Se uno non sta bene da solo non può star bene anche con gli altri, oppure diventa un po' di elemosina, no? Dottor Aquilar, lei è d'accordo? Sì, certo. Però... Anche quando non stiamo tanto bene con noi stessi, non ne facciamo una tragedia, perché può darsi che qualcun altro ci può aiutare. Basta ricordarci che l'altra persona ha un altro modo di sentire, ha un altro modo di pensare, ha un altro modo di rappresentarsi la realtà, e anche quando proprio non siamo bravissimi a suonare il pianoforte, io credo che qualcuno ci aiuterà, sì, anche essendo imperfetti, anche non stando insieme da soli. Cioè, se io strimpello un po' e ho vicino Roberto Cacciapaglia, un po' mi aiuta, no? Esatto. E prima o poi un Roberto Cacciapaglia passa. Un Roberto Cacciapaglia passa, acchiappatelo, e speriamo che passi anche un dottor Aquilar. Assolutamente. Quindi, grazie dottor Aquilar, grazie Roberto Cacciapaglia, grazie a voi. Appuntamento a domani, dopo il GR delle 11.